Adesso abbiamo al telefono l'intervistato di oggi, che è Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Benvenuto. Sono Massimo. Ciao. Massimo fa parte di un duo musicale che si chiama Insonnia Rosa, che appunto sono gli artisti ospiti della puntata di oggi e ci parleranno appunto del loro ultimo lavoro. Allora Massimo, la vostra band, il vostro gruppo si chiama Insonnia Rosa, e come mai si chiama così? Anche se forse lo posso intuire. Abbiamo trovato una complicatissima soluzione al fatto che la cantante, l'altro 50% del duo, della band, si chiama Sonia Rosa. io da gentleman faccio l'in, e quindi facciamo Insonnia Rosa. Hai lasciato il posto alla donna. Esatto. Non diciamo che è stato complicato trovare un nome, ma poi ci siamo accorti che ce l'avevamo lì a portata di mano da sempre. Anche perché, tra l'altro, è sempre così con le band, correggimi se sbaglio, ma il nome della band di solito è un po' strano da, insomma, uscirne fuori con un nome convincente. È sempre difficile. È vero, difficilissimo. Infatti. Cioè, ce ne sono veramente tanti che potrebbero essere carini, ma poi ti deve comunque rappresentare sempre, quindi rimane una scelta difficile. Esatto, perché sia qualcosa di bello, sia qualcosa che deve piacere e convincere e rappresentare, no? E qui cambia tutto, perché insomma. Sì, assolutamente. Eravamo un po' indecisi tra Frufru Dakota o le panchine, qualche cosa del genere, però poi abbiamo deciso per quello. Le panchine molto indie, è vero. Per un gruppo punk era perfetto. Panchine, ci sta, carino. Allora, voi appunto siete un duo musicale di Monza, e il 21 giugno di quest'anno è uscito il vostro ultimo lavoro, il vostro EP, che si chiama Nel momento del bisogno, introdotto prima da un brano che faremo ascoltare tra poco ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che è www.come666. Allora, spiegaci un po' questo album, da come nasce, e anche poi se ci parli del singolo, ovviamente, che faremo sentire dopo. Sì, allora, l'album nasce da, ovviamente, poi tutti i pezzi li scriviamo bene o male insieme, e sono un po' la raccolta delle nostre idee su quello che è l'attualità, quello che sono i nostri pensieri rispetto al sociale soprattutto, e alle problematiche anche che alla realtà che troviamo anche quotidianamente, senza neanche andare troppo nel misterioso o nell'oscuro. Per a volte le cose semplici e ordinarie sono fantastiche e magari straordinarie per qualcun altro. Il brano singolo ultimo proposto, appunto, www.come666, è un po' una parte di noi in ribellione contro i social, magari contro quel mondo lì che è molto pericoloso, tra virgolette, sotto alcuni punti di vista. Infatti lo accostiamo appunto al 666, magari un po' esageratamente, ma volutamente. Però provocatori. Sì, rende l'idea. Per rendere l'idea, esatto. Il vostro brano, si può dire, è un'ironica presa di coscienza di fronte ai cambiamenti sociali e alla loro inarrestabile evoluzione. Appunto, parlate di tanti temi sociali. Tu dicevi prima, guardiamo, osserviamo la realtà e a volte l'ordinario ci sembra straordinario. Il momento storico in cui noi stiamo vivendo ha proprio dello straordinario, anzi è un eufemismo dire così. Questo periodo di pandemia come l'avete vissuto? Ha avuto delle conseguenze, oppure è stato di ispirazione, insomma, per il vostro lavoro? Beh, di sicuro, contando che noi riflettiamo molto anche appunto sull'ordinario, queste cose straordinarie ci sono ancora più di punti di riflessione. Quindi sì, abbiamo pensato di più, abbiamo riflettuto di più su noi stessi e su tutte le problematiche, ovviamente, che ne conseguono da queste cose, e Poi in realtà personalmente, con tutto rispetto per tutti, per noi è stato anche un periodo abbastanza buono, nel senso abbiamo fortunatamente, stando a tutti bene di salute, è stato un periodo dove si è bloccato tutto, ci siamo bloccati anche noi, e quindi quando ti blocchi, ti fermi, hai una visione diversa delle cose, puoi guardare le cose in maniera un po' differente da come l'hai sempre fatto correndo, quindi... l'ho trovato sinceramente molto positivo. Bene. Sì, è vero, perché questa è una cosa che a mio parere, diciamo, anche per molti altri è stato così, ma anche per me, cioè con tutto il rispetto possibile e immaginabile, però ha avuto qualche lato positivo nel personale di ognuno di noi, io credo. Esatto, quello intendevo proprio. Esatto, quindi proprio come un momento di riflessione, di pausa per poi andare avanti e continuare. Sì, un'opportunità che non hanno avuti molti, comunque già da sfruttare, prendendo le cose belle di ogni cosa, è stata un'opportunità. Bene, grazie della sincerità. Le vostre influenze musicali, perché noi sappiamo che appunto avete sicuramente influenze rock, ma vi rifate anche un po' all'indie, ci sono varie commistioni, parlaci un po' di quali sono stati i vostri riferimenti, specie all'inizio. Allora si può dire che sicuramente le cose che ci legano nella band sono i nostri padri cantautori italiani, che hanno sempre un nostro pezzettino di cuore, che come può essere di André Battisti, Dalla e via dicendo, Tenco, qualcun altro ancora. Loro di sicuro ci hanno influenzato molto, anzi spero e cerco di farmi influenzare il più possibile, vorrei sempre di più, perché qualsiasi cosa posso rubare a una persona del genere è solo a mio vantaggio, ecco. Rubare tra virgolette, poi ovviamente bisogna farla propria una cosa, se no non ha senso dirla. Ecco, guarda, noi oggi stiamo facendo proprio una puntata sulle cover, cioè dedicata alle cover, alle reinterpretazioni, sì, sì. Insomma, rendere proprio le insomma canzoni importanti, famose, eccetera. Quindi ti volevamo fare una domanda di questo tipo. Avete fatto cover? Avete in mente di fare cover? Insomma, come vi approcciate a questo mondo? Se vi siete approcciati? Un pensiero su questo. Ma all'inizio facevamo molte più cover, devo dire. Poi abbiamo smesso per concentrarci molto sulle cose nostre. Smesso a livello di band, poi a livello proprio comunque ti piace sempre magari ascoltare un pezzo e provare a rifarlo, risuonarlo, anche solo come pausa tra un pezzo e l'altro nostro, tra virgolette, lavorativo, quindi è sempre piacevole. Come band ultimamente, le ultime cose, abbiamo provato sia a fare qualche cover, così sempre a livello gioviale, non è mai uscito nulla di cover nostro. Abbiamo fatto qualcosa di Battisti, Io vorrei non vorrei è l'ultima, okay, che abbiamo provato a fare, ecco. No, però lo trovo un ottimo modo, soprattutto quelle reinterpretate. Capisco che molti affezionati delle canzoni, quando sentono una cover troppo reinterpretata, ci rimangono quasi male. Però io le preferisco un po' personalizzate. E anche noi siamo di questo parere. Sì, sì, sì. Riallacciandomi sulle cover, però stavolta parlando di cover intese come copertine di album, vorrei parlare della vostra, perché nella vostra copertina raffigura una Mona Lisa in versione un po' schizzo, quasi realizzato al carboncino. Adesso non lo so perché non sono un'esperta, però spiegaci come mai questa scelta. E invece nella cover del vostro singolo c'è, se non sbaglio, Il giudizio universale di Michelangelo. Sì. Allora arrivano tutti dalla stessa mano, che è quella di un nostro artista amico, nostro amico artista, che è Davide Caviglia, che ha eseguito questi disegni al buio, quindi bendato. sì, è incredibile, cioè sembra che non sia possibile perché invece no, sì. Andatevi a vedere perché sembravano effettivamente degli schizzi però fatti bene. Sì, sì, sì. E li ha fatti al buio, cioè li fa al buio, io l'ho visto anche se puoi testimoniare. L'ho visto al buio, è vero. Okay. Sì, sì, disegni al buio. E no, ci sono piaciuti tantissimo, ci piace la sua mano, ci è piaciuto anche avere una piccola parte di lui, della sua arte nella nostra, e quindi abbiamo scelto lui come tema per tutte le copertine dei singoli e dell'album. Bella, bella questa commistione di arti. Bellissimo. Sì, poi era, comunque c'entrava molto nei nostri brani, cioè ci può essere sempre un perché in quei disegni. E ultima domanda, avete insomma dei progetti prossimamente oppure suonerete da qualche parte? E allora, ultimamente gli unici concerti che abbiamo fatto sono in streaming, quindi in saletta nostra. Beh, anche quelli in streaming, sì sì, ci puoi dire, tanto ormai ci stiamo organizzando. Perfetto, sì sì, anche noi ormai iniziamo a prenderci un po' la mano, sembra sempre un po' ridicolo fare un live davanti a un cellulare, però beh, ultimamente nell'epoca del Covid funziona così. E guarda, io sinceramente sono sempre un po' sballato su queste cose, che la compagna Sonia è molto più ferrata, fa tutte le date di qualsiasi cosa, io le perdo. Allora qualsiasi. Facciamo così, diciamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di andare a seguirvi su Instagram, immagino nella pagina Instagram vengano pubblicate queste cose. Esatto, esatto, man mano che escono pubblichiamo tutto, sì sì. Allora andate a seguire l'Insonnia Rosa su Instagram, sui social, ma soprattutto andatevi ad ascoltare il loro EP nel momento del bisogno. Adesso vi facciamo ascoltare invece il loro appunto ultimo singolo, che è www.come666. Ho paura di scrivervi. www.come666. Voglio raccontare l'oscenità che altrimenti non ti farei, se non fosse che vieni di bianco dipinta in mano una pinta e mi ritrovi a noleggiare. Ma se tu fossi mia, se fossi mia. Siamo fatti per farci male, lo faccio e lo faccio bene. Crediamo in farsi dei, la moda di farsi gay, la moda dei fatti tuoi, la moda dei fatti miei. Sai come la fine del male, sei come l'istinto di una scelta che non farei, se non fossi come l'inizio di me. Sei il mio vizio che non voglio smettere, smettere mai. Siamo fatti per farci male, lo faccio e lo faccio bene. Crediamo in farsi dei, la moda di farsi gay, la moda dei fatti tuoi, la moda dei fatti miei. L'amore che ti farei, bu come sei, sei, sei. Apocalisse, un passaggio di livello. Attestate tutti i fari delle zone. Puoi pisciare in Parlamento e non uscir neanche contento. Vorrei essere come Elton, quanti modi di indossare una sciarpa rosa. La Brianza, la mia Broadway, è come gesto d'amore rubare i veli delle suore, rubare i veli delle suore. Non sei affatto alla moda tu, vai ancora con le donne tu, e invece io. Che voglia di farmi male, mi faccio e lo faccio bene. Crediamo di essere dei, la moda dei falsi gay, la moda dei cazzi tuoi, la moda dei cazzi miei. L'amore che ti farei, come sei, sei, sei. Apocalisse, un passaggio di livello. Assessate tutti i vetri della scuola, di che si parla in Parlamento. Ah, ma che bel divertimento. successo l'amore, rubare i veli delle suore, rubare i veli delle suore. Ma dove stai andando? Sto cercando di sorpassare il mio livello sociale. Ma ce la fai? No.